Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mattino. Non bisogna sempre e solo sacrificare la scuola. La scuola, a mio avviso, adesso è il luogo forse più sicuro delle case, più sicuro dei locali. Sono i trasporti che sono una vergogna, una vergogna. Questo decreto non è altro che un reminder per le persone che si sono dimenticate le semplici norme da osservare. Siccome abbiamo tutti mollato quest'estate, e allora ci viene ricordato cosa dobbiamo fare. Meno male, un motivo valido per non andare più quel cavolo di feste di compleanno dei compagni di scuola. Il mio mondo ideale questo. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Le feste dei compagni di scuola, le feste dei bambini, basta, basta, basta, basta. E concordo con entrambe le ascoltatrici che ci hanno mandato gli WhatsApp. Il vero problema sono i trasporti, ma del resto lo stanno un po' sottolineando tutti, e mettendo in relazione la questione della scuola alla questione dei trasporti. E l'altra che dice che questo decreto non è in realtà un decreto tanto per le norme quanto quasi una cosa a ricordarci, occhio, che siamo ancora in una situazione di difficoltà, una situazione problematica. Se volete intervenire, dirmi la vostra, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. C'è anche l'email 24mattino@radio24.it, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Questa è la seconda parte di 24 Mattino. Sono le 7:21 minuti e 22 secondi ed è mercoledì 14 ottobre. È la parte dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. Iniziamo dunque come sempre dai titoli dei quotidiani. Virus scontro regioni governo, il titolo del Corriere della Sera. Sembra un titolo di 4 mesi fa, però virus scontro regioni governo. Il Messaggero ci informa che sono bloccati gli aiuti anti-Covid, i ministeri tengono fermi 200 provvedimenti, 2 su 3, e i finanziamenti non partono. La Repubblica ci informa che torna l'incubo virus nelle residenze per anziani, nelle RSA, case di riposo blindate per proteggerli. La Stampa che c'è il rischio di 100 morti al giorno. Il Quotidiano Nazionale che c'è un boom di ricoveri e c'è un allarme negli ospedali. Secondo il Giornale siamo chiusi e mazziati, nessun aiuto a bar, o meglio, non noi, bar e ristoranti. Nessun aiuto a bar e ristoranti, il bonus assunzioni non arriva, ci dice il Giornale. Fatto Quotidiano, ancora sulle regioni, bocciate, 5 mesi buttati via, cosa non si è fatto sul Covid dal lockdown a oggi. Fatto Quotidiano che dunque se la prende con le regioni. Avvenire, per non andare in blocco, Conte sacrifici per evitare un nuovo lockdown, tuteliamo economia e salute. La Verità, Conte ci fa pagare i suoi errori, quindi il Fatto Quotidiano se la prende con le regioni, La Verità con il governo. Libero ha un'apertura curiosa. Gli islamici irrompono in borsa. La Sharia piazza affari. A Milano debutta il primo fondo che investe secondo il Corano. Niente titoli di società legate all'alcol o alla carne di suino. Il Manifesto, fronte del trasporto. Trasporti a rischio contagio, è questo il tema. Il Sole 24 Ore apre sull'asta di BTP. Il titolo triennale va sotto zero come rendimenti. L'Europa proroga intanto gli aiuti di Stato. E la Gazzetta dello Sport, che adesso mi è sparita nel nulla, e però parla all'apertura sui 30 contagi in Serie A. Torneremo anche sui temi del calcio del campionato. Però come sempre iniziamo da qualcosa di diverso, e iniziamo dai magistrati. Facciamo così. Lunedì mattina abbiamo ospitato Luca Palamara per farci raccontare un po' com'era questo metodo, chiamiamolo aperte virgolette di selezione, chiuse virgolette per gli incarichi in magistratura, e come passava dalle correnti, di come lui ne fosse stato un perno di questo metodo aperte virgolette di selezione, chiuse virgolette, degli incarichi di vertice in magistratura. Però c'è anche il tema di come si entra in magistratura. Come ci si entra? Con un concorso che tutti gli studenti di giurisprudenza sanno e dicono essere il concorso più duro, quello per entrare in magistratura. Ma perché è duro? Perché lo è veramente o perché c'è qualcosa che non torna? Secondo quello che racconta La Verità, se ricorderete ce ne siamo occupati anche nei giorni scorsi, ne parlava qualche altro quotidiano, e beh, sui concorsi per entrare in magistratura non tutto è chiaro. Se ne occupa Maurizio Tortorella a pagina 15. Oggi alle 15.30 Alfonso Bonafede dovrà rispondere a un'interrogazione, quella di del capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, Pierantonio Zanettin, che è stato tra l'altro membro del Consiglio Superiore della Magistratura. In due interpellanze ha preso di mira soprattutto l'ultimo concorso del 2019, segnalando che alcune delle 301 prove scritte sono state giudicate idonee dalla Commissione, malgrado fossero piene di strafalcioni giuridici e di errori di ortografia. Un candidato incredibilmente ha superato l'esame rispondendo a una domanda non con un testo, ma con uno schemino grafico. In certi casi gli elaborati presentavano addirittura clamorosi segni di riconoscimento. Bonafede risponderà sui concorsi del 2019, ma sono gli unici ad essere sospetti? Zanettin solleva il legittimo dubbio che decine di magistrati in carica siano stati selezionati per decenni attraverso loschi traffici, e il termine decenni pare corretto perché il deputato ricorda l'odissea di un candidato bocciato nel concorso da magistrato nel 92 e nel 2000, che dopo un'innumerevole serie di ricorsi è finalmente riuscito ad acquisire la completa documentazione. E Maurizio Tortorella lo raggiunge. Si chiama Piero Berardi. Pierpaolo Berardi adesso fa l'avvocato penalista ad Asti. Per 28 anni ha dovuto fare i conti con il peggiore dei muri di gomma. Ha presentato 15 ricorsi al TAR, ha fatto denunce penali, ha svolto indagini. Cosa ha scoperto tra le altre cose? Che la commissione, per analizzare collegialmente tre temi di diritto civile, penale e amministrativo, non superava in media i 3 minuti. Alcuni scritti dichiarati idonei poi non presentavano né il voto né le firme dei commissari. Il fascicolo di un concorrente è addirittura scomparso dagli archivi del Ministero della Giustizia. Nel 2000 il TAR del Lazio aveva riconosciuto il pieno diritto di Berardi a una seconda valutazione della sua prova, ma il Ministro della Giustizia aveva fatto resistenza e ha ottenuto che a ricorreggere quella prova fossero gli stessi commissari che l'avevano valutata inidonea, i quali però nel frattempo erano indagati per l'inchiesta penale, e dunque nulla di fatto. Oggi Bonafede alle 15.30 risponderà su questa questione. Vi voglio portare su un altro fronte, il pezzo della Verità, Maurizio Tortorella, pagina 15. Ci spostiamo su La Repubblica e siamo a pagina 21. E ritorna La Repubblica con un peso, poi ci si dedica anche Gianluca Nicoletti con un suo commento sulla stampa, sulla vicenda della ragazza di 18 anni, ne avete sentito e ne abbiamo raccontato, che è morta di overdose a Terni, dopo aver richiesto di fatto al suo fidanzato come regalo di compleanno per i suoi 18 anni una dose di eroina. Alessandra Zinitti dedica una pagina a tutto questo e siamo a pagina 21. La ragazza che tra l'altro frequentava la stessa scuola dei due quindicenni stroncati stroncato a luglio insieme ad un amico da un mix letale che essenzialmente aveva rimediato andando a comprare il metadone in un parco. La preside, intervista la preside Luciana Leonelli, addolorata ma anche arrabbiata, Sento dire in giro la scuola dov'era, ma per Maria Chiara come per Flavio la scuola c'era, erano seguiti da me, dagli insegnanti, dalle famiglie con un supporto, ma non basta. Racconta, quando vedo i ragazzi uscire dai cancelli mi tremano i polsi. E ci sono anche le parole del magistrato, Alberto Liguori, il procuratore di Terni, troveremo i responsabili di questa morte, stiamo lavorando sulle piazze di spaccio. E mette a nudo un problema, dice questo, dopo la morte di quei due quindicenni, cosa è cambiato? Nulla. Noi abbiamo fatto tutto quello che stava a noi, abbiamo arrestato più spacciatori vicino alle scuole che in qualsiasi altro posto, ma io faccio il chirurgo, posso togliere il tumore, delle metastasi devono occuparsi altri, siamo disarmati, e chiede che una parte dei soldi del recovery fund, dei soldi che arrivano dall'Europa, vengano utilizzati esattamente per questo, per dare opportunità a questi giovani di provincia. A proposito di droga, è passata un po' sotto, sotto le cronache, se ne parla sempre un po' meno. La ricordate la vicenda dei carabinieri della caserma di Piacenza? Ne abbiamo parlato. E c'è un altro caso che riguarda l'arma e che riguarda un possibile reato che naturalmente andrà poi verificato in sede penale. Lo racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 23. E il riassunto è molto semplice. Prima si sarebbero tenuti 11.000 euro perquisendo casa di uno spacciatore arrestato. E poi, quando hanno iniziato a temere di essere scoperti, sarebbero tornati a casa per rimetterceli. Di certo entrando nel sistema informatico delle intercettazioni per cancellare due frasi che potevano comprometterli. Un vice brigadiere e un appuntato scelto dai carabinieri in servizio nel 2017 a Ro sono stati messi agli arresti domiciliari con le accuse di appropriazione indebita, falso ideologico e accesso abusivo al sistema informatico. Di fatto avrebbero provato a rubare 11.000 euro ad uno spacciatore per poi nascondere le prove. Una pausa. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Se io faccio entrare 5 persone in taverna entrando da garage e 5 persone faccio entrare dall'entrata principale, mangiamo 5 persone di sopra e 5 di sotto, sono a posto? Non avete il coraggio di trattare questo aspetto economico delle mascherine, che ogni famiglia deve spendere 1.000 euro in più l'anno per poterle obbligatoriamente indossare. Non ne avete il coraggio perché siete... Capisci a me. Buongiorno Spezia, se può anche dire due parole su noi in Olanda, che stasera alle 10 entriamo in un lockdown parziale. Grazie. Vi siamo vicini, che cosa le devo dire? Anzi, se siete all'estero, se ci ascoltate all'estero, mandatecelo qualche WhatsApp audio sulla vostra situazione, raccontateci un po' come vanno le cose, perché so che abbiamo una parte di ascoltatori che ci ascolta da altri luoghi del pianeta che non sono l'Italia. Le mascherine sono un costo? Sì, lo so, sono un costo. Sì, è un costo da sobbarcarsi, teoricamente nelle scuole dovevano arrivare... In parte non sono arrivate, ci sono anche quelle lavabili. È un problema, va bene. Per alcuni sarà più intenso, per altri meno, però ecco, come sente ne parliamo. Non so che cosa volesse dire con non ne parliamo perché siamo chissà cosa. Servi? E poi dai, su, 5 persone di sopra a mangiare, 5 di sotto, ma di che stiamo parlando? Ma su, dai, non andiamo nel dettaglio. Questo paese tocca normare tutto in questo paese, perché sennò la gente trova le vie più strane per aggirare le norme. Oh, invece all'ascoltatore che scrive a proposito di scuola, arriviamoci, guarda, arriviamoci al tema della scuola e lo facciamo con l'intervista a Luca Zaia, tra l'altro nei prossimi giorni sarà il nostro ospite, l'intervista a Luca Zaia sul Corriere della Sera, pagina 5. Il tema è quello appunto della didattica a distanza. Molto se ne è parlato in queste ore, forse anche a sproposito alla fin fine, con quest'idea che era stata lanciata da alcuni presidenti di regione di ritornare a una didattica a distanza più intensa per i ragazzi sopra i 16 anni, ossia quelli molto semplicemente che possono essere lasciati a casa con una certa tranquillità e quindi i genitori possono andare al lavoro e i ragazzi lasciati a casa. Presidente Zaia, che è successo? Gli chiede Martina Zambon. Se è vero lo scenario che prefigura il governo, anche se in via prudenziale, non possiamo non pensare di mettere in sicurezza anche il mondo della scuola. Quindi io, con il massimo rispetto e in punta di piedi, ho posto la questione, tanto che ne ho parlato nella sede più corretta con i colleghi governatori, la cui reazione è stata assolutamente positiva. Io non ho mai parlato di didattica a distanza tout court, dice Zaia. Facciamo chiarezza. Ho proposto una didattica a distanza alternata, pensata in maniera organica, che è diversa da quanto succede ora nelle scuole di molte regioni, non in Veneto, che non hanno aule a sufficienza. Deve essere tarata sul tema degli assembramenti e dei trasporti, garantendo una sensata alternanza alle ultime classi delle superiori, con un impatto minimo sull'esperienza scolastica. Se c'è chi si sente vittima di lesa maestà, si lega bene ciò che sto dicendo. La sintesi non autorizzata ai giornali l'ha fatta qualcun altro. E dice qua Zaia, al di là del ragionamento generale, ossia il fatto che in realtà molte scuole già stanno facendo alternanza tra didattica a distanza e didattica in classe, dice Zaia una cosa giustissima qua, Non è da fare domattina la programmazione, ma non possiamo neppure permetterci d'aspettare che il problema esploda. Ancora un tema di un grande tema di programmazione che rimane, devo dire la verità, purtroppo un po' sullo sfondo, e ieri ce ne siamo occupati lungamente raccontando quello che succede, per esempio, con le terapie intensive, che il rinnovo dell'aggiunta dei posti in terapia intensiva che non è ancora completato e molti altri elementi. Gli risponde da pagina, risponde più che a lui, più che a Zaia, risponde un po' a quest'idea del ritorno alla didattica a distanza, sempre dal Corriere della Sera, pagina 6. Il presidente dell'associazione dei presi, Di Giannelli, dice: insegnare da remoto, proposta irricevibile tranne in caso di lockdown. E visto che siamo su questi temi, un altro ascoltatore dice, ci chiede a proposito della questione dei trasporti e della rimodulazione degli orari, perché questo è l'altro fronte che si sta affrontando. Ebbene, dice, ma se la responsabilità è delle regioni, come può opporsi l'amministrazionina? Guardi, l'amministrazionina non si oppone talmente tanto che la circolare per l'inizio dell'anno scolastico emanata a luglio diceva che le scuole hanno autonomia quest'anno nel decidere gli orari di ingresso degli studenti. Allora, a questo punto la palla ricade sulle regioni, ma soprattutto sui sindaci, in particolare nelle grandi città, che mettano a un tavolo tutti quanti e decidano per ogni singolo quartiere, no? E basandosi anche sul flusso di studenti, da dove vengono, questi sono tutti i dati, però bisogna avere i dati per fare questo, e bisogna averli disponibili, bisogna saperli utilizzare, bisogna saperli sfruttare, e decidano poi come organizzare gli ingressi e le uscite da scuola. Cosa ancora? Parallela, a proposito di trasporti, parallela alla questione Covid, sta esplodendo la guerra dei monopattini nelle città, soprattutto nelle grandi città, soprattutto a Roma e Milano. Milano che sta preparando una stretta contro il parcheggio selvaggio, appunto, dei monopattini. E Roma che denuncia il Messaggero a pagina 11 con Lorenzo De Cicco e Francesco Pacifico, resta ferma. L'assedio a Roma, a Milano invece li rimuovono. Racconta Raccontano appunto i due giornalisti, sbilenchi sui marciapiedi, abbandonati sui parcheggi dei disabili, sdraiati come birilli sulle strisce pedonali o davanti ai portoni dei palazzi. L'avanzata scomposta dei monopattini nel cuore di Roma non incontra ostacoli. I bicicli della rivoluzione green, annunciata dal Campidoglio sul finire del lockdown, in assenza di qualsiasi regolamento comunale, hanno trasformato il centro dell'urbe in uno scompigliato parcheggio. Altre città sono già intervenute, non solo all'estero, da Londra a Berlino, le grandi di metropoli si sono dotate di codice e multe salate per chi sgarra. Ora si muove anche Milano alle prese con lo stesso problema, la sosta sregolata che dilaga persino sui marciapiedi. E dunque scatteranno multe salate a Milano, dove per l'operazione è stata arruolata anche la TM, l'azienda di trasporto pubblico milanese, che con un autocarro potrà caricare 16 mezzi alla volta e portarli via, in particolare dalle strisce pedonali e dalle fermate dei bus. I Ghisa si concentreranno per cominciare nell'area della cerchia dei Bastioni, ossia la zona più centrale di Milano. Roma al momento sembra voler escludere qualsiasi regolamentazione. A proposito di questioni Covid, vi segnalo, e visto che siamo sul Messaggero, vi segnalo anche questa pagina che dà un po' l'idea di quello che sta succedendo sull'attuazione dei provvedimenti. Siamo a pagina 7 con Francesco Bisozzi e Luca Cifoni, i quali ci raccontano che mancano 2 decreti su 3 tra i decreti attuativi per dare corpo alle misure approvate. Come sapete, ogni volta che viene varato un provvedimento, i ministeri devono emanare spesso, quasi sempre, dei decreti ulteriori che diano attuazione alle norme, cioè dicono, sono dei decreti che dicono questa norma deve essere attuata in questo modo. Ebbene, sono ancora da definire 200 provvedimenti. Il traffico. Mattino. Caro Simone, anche qui dalla Repubblica Ceca, lockdown parziale da oggi. Scuole chiuse, bar chiusi, ristoranti chiusi, palestre, piscine chiuse, musei chiusi, restano aperti solo i negozi, i parrucchieri per ora, e vedremo come andrà. In bocca al lupo anche a te, in bocca al lupo. Prima di andare rapidamente alla politica, direi che la storia di cronaca del giorno è quella che ci viene raccontata dalla Stampa e da altri giornali a pagina, la Stampa a pagina 13 con Walter Manzone, e arriva da Bra, provincia di Cuneo, con tanto di sentenza. Io quando ieri l'ho vista un po' su internet non ci volevo credere, e poi ho scoperto c'è anche una sentenza di un giudice, quindi evidentemente è qualcosa di appurato. Avvelena la collega col cappuccino, temeva di perdere il posto in ufficio. La storia è questa: un cappuccino all'ansiolitico è quello che ogni giorno per mesi l'impiegata di un'agenzia assicurativa portava con un bel sorriso alla collega, per stordirla e magari metterla in cattiva luce agli occhi dei superiori, tutto perché al lavoro si era iniziato a parlare di tagli al personale e aveva paura che la rivale potesse rubarle il posto. Il piano è fallito, ma smascherarla non è stato facile. Cosa è successo? È successo che questa persona che prendeva il cappuccino e i caffè per tutti, ogni mattina, stando a quanto hanno appurato i magistrati, metteva nel cappuccino della collega appunto una pastiglia di ansiolitico, ci scioglieva dell'ansiolitico dentro, dopodiché la persona che beveva il cappuccino ha iniziato a sentirsi male, ogni giorno era stordita, non stava bene, mal di testa, giramenti di testa, dopodiché si fa controllare, vede che da esami neurologici non risulta nulla e dunque inizia a sorgere il sospetto, perché inizia ad accorgersi che si sente male subito dopo aver bevuto quel cappuccino. Dunque se ne fa portare un altro, ne beve metà, l'altra metà lo porta a analizzare e scopre che dentro appunto c'è dell'ansiolitico, e telecamere, riprese eccetera hanno fatto tutto il resto. Avviene a Bra, provincia di Cuneo. La politica ci porta su quella che è la svolta europeista di Matteo Salvini, Salvini sposa la linea di Giorgetti, per dirla con il Corriere della Sera, pagina 15, o per dirla con Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, la Lega fa un tour in Europa per rompere l'isolamento, un giro di Salvini e Giorgetti nelle capitali per aprire un dialogo con chi governa. A dichiararlo è stato lo stesso Salvini, che ha detto che resterà a Strasburgo nel gruppo di Identità e Democrazia assieme a Le Pen, ai tedeschi di Alternative für Deutschland. Nel frattempo però si guarderà attorno cercando un confronto con chi oggi in Europa governa. A novembre comincerà un vero e proprio tour presso le cancellerie europee, uno spiraglio che consente a Giancarlo Giorgetti di definire la riunione di ieri positiva. Poi vedremo come va il contagio e quindi se a novembre Salvini e Giorgetti riusciranno a partire, però ovviamente è il segnale che qualcosa sta cambiando, l'avvicinamento di Matteo Salvini a quel mondo moderato del quale in parte evidentemente gli sono mancati i voti, gli mancano i voti e gli manca l'appoggio. Il tutto su suggerimento di un uomo che viene ripescato direttamente, per così dire, dall'epoca d'oro di Silvio Berlusconi, ed è quello che fu il presidente del Senato e gran consigliere del periodo della discesa in campo di Silvio Berlusconi, che è Marcello Pera. Ci si richiama, visto che Salvini l'altro giorno proprio sul Corriere aveva parlato di rivoluzione liberale, bene, quello che è lo slogan che utilizzò Silvio Berlusconi al lato della discesa in campo su suggerimento proprio di Giuliano Urbani, di Antonio Martino e proprio di Marcello Pera, che oggi viene intervistato da Antonio Polito, e Pera dice: beh sì, il confronto c'è, è iniziato, è un rapporto che è iniziato quando Francesca Verdini, che conosco da quando era uno scricciolo biondo, nel dicembre dell'anno scorso organizzai un convegno a Roma sull'Europa e chiesi al padre di Francesca Verdini, Denis, di invitare Salvini. Lui venne, dopo ci parlammo a lungo in privato, si è creato un ottimo rapporto, poi un mese fa dice ho votato per la Ceccardi in Toscana e adesso di fatto lo sto consigliando sul fronte economico, sul tema della giustizia, sul quale Pera combatte da molti anni, sul tema del cambiamento della Costituzione, con l'idea di arrivare a presidenzialismo o cancellierato o premierato, però una strada dice va presa, e poi l'Europa appunto. E qua i consigli di Pera sono sulla scorta di quello che è stato il suo pensiero per anni. La Lega non può stare con la Le Pen. Dove debba andare come lo decideranno loro? Il Partito Popolare Europeo sarebbe una scorciatoia, ma non si può chiedere a Salvini un'inversione a U in pochi mesi. Gli ho suggerito di ridefinire il sovranismo. Non è autarchia o peggio ancora nazionalismo. Non deve basarsi sul rifiuto di cedere sovranità all'Europa, ma deve accettare di cederla solo a istituzioni democratiche. Perciò l'Europa di oggi va cambiata. E su Borghi e Bagnai gli anti-euro dice sono simpatici, ma sono fuori dalla realtà, dice Pera. Non si può stare fuori dall'Europa e non si può stare fuori dall'euro, è una posizione irrealistica. Così appunto il nuovo consigliere di Matteo Salvini. Cosa ancora sul tema della politica? Beh, forse direi il tema di Chiara Appendino, lo trovate un po' dappertutto, che dice io sono coerente, non mi ricandido, su molti giornali retroscena e controretroscena, racconti sul fatto che sarebbe pronta a entrare nella squadra di Luigi Di Maio e quindi un passo tra i big del Movimento 5 Stelle, dall'altra parte lei che invece fa intravedere l'idea che possa quasi ritirarsi a vita privata, questa è l'idea. Vedremo che cosa succederà su questo fronte. Di certo molti giornali notano che questo libera Torino, libera la casella di Torino e consente al PD, al Movimento 5 Stelle, di tentare un accordo per questa tornata di amministrative. Con cosa chiudiamo? Con la caducazione, la caducazione, ossia la licenza, la concessione da togliere ad Autostrade per l'Italia. Il Sole 24 Ore ci informa che in realtà la caducazione che sarebbe dovuta avvenire, l'ultimatum era sabato, come ben sapete, come abbiamo spesso raccontato con Paolo Mieli, Ebbene, stanno arrivando ad un accordo, è Laura Galvagni che lo scrive a pagina 18 del Sole 24 Ore, finanza e mercati, il negoziato è a rush finale, i prossimi giorni sono decisivi per trovare un'intesa, speriamo che lo siano davvero perché anche questa cosa la sentiamo da un po' di tempo, e però Atlantia, che è la società che controlla Autostrade, sarebbe ad un passo dall'accordo con la Cassa Depositi e Prestiti, concessa l'esclusiva per l'88% di Autostrade per l'Italia, e la vicenda pare a questo punto destinata a chiudersi. GR24, ci ritroviamo subito dopo per un commento con i fatti di giornata, come sempre con Paolo Mieli, subito dopo il GR, e poi guardate, come dicevo, di Covid abbiamo parlato tantissimo, oggi ci occuperemo di tutt'altro. Pochi giorni fa l'Agenzia per il Farmaco ha dato il via libera alla concessione, al fatto che la pillola dei 5 giorni dopo possa essere presa dalle minorenni senza ricetta, levata di scudi dal mondo cattolico, e una discussione che su questo fronte si riapre. GR. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.